Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Al pronto soccorso della maternità mi dicono di restare fuori. Io sono spiazzato, certo, così è difficile fare il bravo papà. Per un istante penso di mandare a quel paese l'infermiera e di esigere di stare con mia moglie. Poi invece penso che lei in realtà è 100 volte più forte di me, per cui forse non ha tutto questo bisogno. E allora faccio il bravo. In fondo lei sa che sono dall'altra parte di uno strato di legno e di formica. Mi chiamo Gustavo Bonino, sono di Bologna, ho 38 anni, lavoro in un'azienda metalmeccanica, sono sposato con Serena e ho 2 figli, Camilla e Filippo. È un lunedì, è il 3 di ottobre del 2011, c'è una splendida giornata a Milano, ci sono 27 gradi e mezzo, è bella come un mazzo di fiori oggi Milano. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, 349-238-6666 per mandare i vostri sms, oppure voi siete qui, @radio24.it per mandare le mail e per mandare i vostri racconti, che continuano ad arrivare e noi continuiamo a leggere. Oggi si parla di un parto, si parla del parto di Gustavo Bonino. Ma non del suo parto, ovviamente, del parto di sua moglie, che è avvenuto un paio d'anni fa, forse l'anno scorso. Gustavo ci ha mandato questo racconto che era molto lungo e noi abbiamo cercato di accorciarlo il più possibile perché era molto bello, raccontava di quella cosa, dell'attesa vista chiaramente da un marito della nascita del proprio figlio. Se però c'è qualcuno, magari in questo momento, dai, proprio alle 16.08 di lunedì 3 ottobre, uomo o donna che sia, donna magari meglio, ma anche uomo, che ha tanto così dall'avere un figlio, proprio a 2 ore dalla fine, magari se state andando in ospedale o se siete a casa, se è scaduto il termine, magari siete in ospedale con le cuffiette, magari, senti questo, magari vostra moglie è in sala parto e voi ammazzate il tempo ascoltando Radio 24, ma tutto, cioè da Giannino a Cruciani ininterrottamente, roba che, oppure siete in macchina e state andando in ospedale e per caso siete capitati su questa radio. 349-238-6666. Sai cosa? Vi chiamiamo se state andando in ospedale, quindi non chiameranno mai adesso. Perché devi chiamarmi? Che te frega. 349-238-6666 se state proprio per partorire. Non c'entra niente. Quindi ti direi cambia base, però non possiamo, non c'entra niente. Ieri sono stato a casa di mia sorella e suo marito, che non hanno partorito, però ieri mi sono accorto di quanto fosse davvero bella quella casa in cui sono stati, che è stato quello sì un parto, è durato 3 anni e mezzo per metterla insieme. E quindi oggi pensavo al fatto che anche se non avete un figlio, un parto in qualche modo l'avete fatto, no? Gibo, ad esempio, a proposito di case, mi ha scritto sul profilo Facebook: la ristrutturazione della mia casa è stato un parto. Che manco a farla apposta, è durata circa 9 mesi e sabato mi sposo. Gibo fa tutto insieme. Alessandro: la laurea è stato un parto, ma più in generale il parto fu fisiologia, un esame svolto a quiz al computer con risposta multipla, dove le risposte sbagliate toglievano punti, e per arrivare alle 3 domande aperte dopo i quiz dovevi avere totalizzato un punteggio minimo. Bonini, manco la tua università fanno sti numeri. Cioè, allora, c'è un quiz a risposte chiuse. Se passi quello, c'è la risposta aperta. L'ho dovuto fare 6 volte. Alla fine la prof, per clemenza, mi ha fatto fare l'orale. E poi Amedeo. Amedeo ha un messaggio un po' Milano anni 80. Macchina sportiva, pubblicitario di successo. Selezionatore... Già mi fa ridere pubblicitario di successo. Primo, perché mi stupisco che ci siano ancora i pubblicitari. Secondo, che abbiano successo. Selezionatore di ristoranti per una grande e importante guida. Conosco Valeria e dopo un anno arrivano 2 gemelli. Fino qua, no? Nel senso che anche i pubblicitari di successo hanno un cuore, questo vogliamo dire. Antonio Luigi: il primo anno è stato un parto, tutto il primo anno è stato un parto. Massacrante, non si dorme, non si vive, solo pappe, pannolini, tensioni e lacrimoni. Ora hanno 2 anni e mezzo, io ho i capelli grigi, ma viviamo per loro e non tornerei indietro. Questa immagine del pubblicitario di successo che si intenerisce ai capelli grigi mi ha aperto il cuore. Cioè, parlando della pubblicità da viva, ovviamente. 349-238-6666. Dai, che c'è qualcuno che sta partorendo. No, nessuno. Però Diego scrive che Milano è orrenda. Diego, sai perché è orrenda? Perché la vivi male. Perché secondo me Diego è un pendolare. Il pendolare non può che odiare questa città. Non puoi amare una città come questa se ci arrivi la mattina alle 8 e se vai via il pomeriggio alle 6. Se invece ci stai, ti accorgi che è brutta, ma ha qualcosa, può essere bella anche lei, come un mazzo di fiori. Il vostro peggior parto, il vostro parto più lungo. 349-238-6666. Questo è quello di Gustavo. Sono le 19:30. Serena inizia ad avere mal di schiena e le contrazioni. Leggere, qua e là, irregolari. Siamo a casa di sua madre per lasciare Camilla dai nonni per tutta la notte. Io mangio un piatto di spezzatino con patate. Serena invece non ha fame. Partiamo. Parcheggiamo in una via vicino all'ospedale. Tanto è sabato. Domani è domenica, quindi non si paga. Facciamo due passi. In realtà però le contrazioni si sono fatte più frequenti e importanti. Serena si regge a me e io porto il trolley che da diversi giorni era già pronto ai piedi del letto. Lei mi guarda e mi dice, comunque vada, resta sempre vicino a me. È preoccupata, entrambi. Entrambi siamo preoccupati. Pensavamo di arrivare a questo punto più preparati, perché è il secondo. Ma come puoi arrivare a un appuntamento di questo genere preparato? Questa è l'apice delle manifestazioni cui la natura ti dà l'occasione di assistere e tu pensi di arrivarci preparato. Cioè è come se uno volesse gestire un'alluvione o fermare uno tsunami. Semplicemente non si può. Al pronto soccorso della maternità mi dicono di restare fuori. Io sono spiazzato perché così mi sembra difficile fare il bravo papà. Per un istante penso di mandare a quel paese l'infermiera e di esigere di stare con mia moglie. Poi invece penso che lei in realtà è 100 volte più forte di me, per cui forse non ha tutto questo bisogno. E allora faccio il bravo. In fondo lei sa che sono di là, semplicemente separati da uno strato di legno e di formica. Dopo pochi minuti l'infermiera esce e con lei esce Serena. Saliamo per la visita, lei rimanga qui. Mia moglie mi guarda con gli occhi atterriti. Le passo il suo telefonino e le dico, chiamami, per qualsiasi cosa salgo. L'ospedale non mi fa paura di per sé. Diciamo che nell'arco della mia vita, quando sono andato a visitare alcune persone che stavano poco bene, ovviamente le sensazioni non erano assolutamente positive. Nel frangente della nascita dei miei figli invece è stato un luogo, diciamo, anche di gioia. Passa un'eternità. Mi domando perché io non fumi. In questo momento fumerei molto volentieri. E ci ho provato alcune volte, però oggettivamente non mi piace, poi non mi si addice per niente. Qualcuno mi chiama a voce alta con il cognome di mia moglie. Strano, sta per nascere il mio primo figlio maschio e mi riconoscono con il cognome di mia moglie. Salgo, entro nell'area sale parto. Mi vesto come un protagonista di ER. Raggiungo Serena che si è messa la camicia da notte. Mi preparo mentalmente a qualche ora di attesa, sicuramente impegnativa per i dolori di Serena. Arriva l'ostetrica. Si chiama Dila. È una conoscente di Giovanna, la sorella di Serena. Ne ho sentito parlare diverse volte. Dila. È strano nome. Mette una fascetta con sopra scritto Philips e dei disegnini di neonati stilizzati intorno alla pancia di Serena. Serve per monitorare come procede. L'altra volta era stato più fastidioso. Dila invece non dice nulla. Abbassa le luci. Abbassa il volume del tracciato a un sussurro quasi impercettibile. Si siede vicino a Serena. Segue i suoi movimenti e le sistema le placche sulla pancia quando queste si muovono per i movimenti del bambino. Le contrazioni iniziano a fare male. Si rompono le acque e si nota. Dila dice che può incominciare a spingere. La fa sistemare. Le alza una gamba e si appoggia al piede al suo ventre. Solleva la maniglia del letto e la fa agganciare anche a questa. A me dice di fare lo stesso. Forse siamo alla terza spinta e già ci siamo. Queste sono spinte serie, a Serena si bloccano le mani. Con la prima figlia è stata per diversi minuti dopo il parto con tutte e due le mani paralizzate in una specie di posizione innaturale. Adesso quindi le muove per tenerle rilassate. Spinge. Si vede la testa. Filippo è già quasi fuori, guarda verso di me, ma ancora non sa di essere al mondo. Si gira con la pancia verso l'alto. La seconda spinta fa uscire Filippo. Dila lo prende e lo appoggia sulla mamma. Vedere i miei figli appena nati è una sensazione molto particolare, perché ti rendi conto che loro entrano in un mondo che non conoscono e ne entrano curiosi, atterriti e spaventati. E la cosa buffa è che io lo ero altrettanto. Mi giro e ci sono altre due infermiere e un dottore dietro di me. Serena mi dice che con Camilla non è stato così. È stupendo adesso averlo in braccio. Filippo è ancora attaccato al cordone. Serena mi guarda con quell'espressione di pianto e riso mescolati che ti fa capire tutto. L'ostetrica fa tagliare il cordone a me. Così è tua la responsabilità, mi dice. Se tra le teorie c'è anche quella che bisogna lasciare fluire tutto il contenuto del cordone dalla mamma al bambino prima di deciderlo, ma forse lei non è poi così in sintonia con queste teorie, ma alla fine sono teorie. Vado in una stanza attigua dove un'infermiera lava e veste il mio bambino. Dopo un'ora i genitori di Serena arrivano in ospedale. Sono con Camilla. Esco e le faccio vedere alcune foto di Filippo sul telefono. Lei accarezza il vetro del telefonino, lo bacia. Dila poi mi permette di prendere in braccio Camilla e di portarla a vedere sua mamma e suo fratello. Camilla ha un viso che vorrei ricordarmi per sempre. È stanca, curiosa, nervosa e terrorizzata, ma è felice. Io non ho figli e non ho mai assistito a un parto. Non lo so che cosa voglia dire l'attesa così lunga e così emozionante per un evento come quello. La gravidanza l'hanno pensata lunga 9 mesi, secondo me mica solo per far crescere il bambino. No, cioè chi l'ha inventata avrà pensato che ci vuole una preparazione per i genitori, o per diventarlo. Devono immaginarsi come cambierà la loro vita, cosa perderanno e cosa guadagneranno. Devono immaginare e aspettare. Devono un po' soffrire per poter poi alla fine vedere il frutto delle loro attese e dei loro sforzi, e per capire che è tutto diverso da come l'avevano immaginato. E così l'amore per i figli sarà più potente, sarà forse più forte, senza pensieri, sorprendente. E la ragione si metterà da parte. È così che deve essere. Almeno credo. Io ce l'ho una cosa che amo e che sinceramente non pensavo che avrei amato così tanto. È casa mia. Dopo aver venduto tutto mi sono trovato senza una casa, senza un appartamento, no? Qualcuno se lo ricorderà. E quindi per qualche mese ho vissuto ospite da amici. Poi mi sono messo a cercare casa e da quando ho iniziato a farlo fino al giorno in cui poi ho avuto le chiavi in mano e sono entrato da quella porta, sono passati alcuni mesi. Quella è stata la cosa più vicina alla gravidanza che io abbia mai vissuto. E le ultime settimane, gli ultimi giorni sembrava che non finissero mai. C'era sempre qualcosa che non andava e che quindi allontanava quel momento lì, quello in cui ci avrei messo piede. La trattativa, il problema del mutuo, il rogito, l'architetto, i documenti persi all'ultimo minuto, e poi il catasto, i lavori, la luce, il gas, l'acqua corrente, poi ancora lavori e poi dipingerla. E alla fine, e solo alla fine, spostarci le mie cose insieme ad Igor. Quando un percorso è difficile, è doloroso, è faticoso, però alla fine si risolve bene, si dice che è stato quasi come un parto, no? Come quando qualcuno deve prendere una decisione sofferta e chiede in continuazione aiuto agli amici, agli oroscopi, al proprio cuore, a quello degli altri. Un po' come quando un pittore lavora su un'opera che cresce, cresce, ma non diventa mai quello che era previsto. Finché un giorno, boom, la perfezione arriva. Come quando cambi casa. Una volta qualche anno fa mi hanno fatto un test psicologico e mi hanno chiesto com'era casa mia. Ero piccolo, facevo le scuole medie. Io avevo risposto che era piccola, che era buia, piena di cose inutili e colorate, che non buttavo via niente, mi rimaneva tutto in camera. E così non c'era spazio per le cose nuove. Poi ho detto che nello stesso spazio dove avrei potuto metterci magari, che so io, un letto, un divano, ci avevo messo un tavolo da lavoro, che la casa aveva una porta blindata, che non ci invitavo gli amici. Poi ho chiesto cosa significava questa domanda, anni dopo. E mi è stato risposto che la casa è un simbolo, che la casa rappresenta la vita. E nella mia, semplicemente, non facevo entrare nessuno in quel periodo, perché ero pieno di pensieri legati al passato. E quindi mi stava stretta quella mia vita. E anche se magari mi stava simpatica, non mi dispiaceva, dovevo cambiare, dovevo allargarmi, come se anche l'anima dovesse prendere un grosso respiro e crescere. Ed era così vero che l'ho capito pure io. Forse è anche per questo che alla mia casa ci tengo adesso. Perché so che cosa veramente. È stata come un parto. Senza epidurale. She takes me home. She takes me home. I wish I was dead when I came to. I walk alone. I am not known. Another one sighs when I make ties. Ties, ties, ties. Io avuto degli amici che sono stati in sala parto durante quel momento lì. E le opinioni che... il parto, intendo dire. E le opinioni che sono arrivate erano discordanti. Cioè, di fronte alla moglie, tipo alle cene, un momento meraviglioso, di grande condivisione. E alcuni questa teoria la mantenevano anche poi da soli. Altri invece, quando si era soli uomini, diciamo, avevano qualche piccola riserva. Vorrei sapere esattamente invece com'è andata a Gustavo. Pronto, Gustavo? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu come stai? Io bene, bene, grazie. Grazie per essere qui innanzitutto per il tuo racconto. Grazie a voi. Senti, quando accadeva questa cosa? Cioè mi riferisco al parto, ovviamente. 15 novembre 2008. Quindi il bimbo o bimba? Bimbo. Il bimbo ha già 2 anni e mezzo. Sì, sì, nel giro di 2 mesi ne fa 3. Ah, credevo nel giro di 2 mesi ne aveva fatti 2. No, riferito no. Al giorno del parto. Senti, è rimasto figlio unico o... No, ha una sorella più grande che ha iniziato in questi giorni la scuola elementare, quindi ha 6 anni. E tu sei rimasto dentro in tutte e due le occasioni? Sì. Senti, ma tu che mestiere fai? Io sono pure in un'azienda metalmeccanica. Sono product manager. Ok, quindi non è che hai a che fare con cose cliniche di ospedali abitualmente, giusto? Assolutamente no. Perché, scusami, veramente non è morboso, però la prima cosa che chiedo sempre alle persone, e non posso non farlo a te perché il tuo racconto parlava esattamente di quel momento lì, non hai mai avuto paura anche che in sala parto succedessero delle cose che potevano andare storte, oppure anche semplicemente di star male proprio? Ma star male no, sinceramente no. La cosa che più mi spaventava è che dopo la mia percezione potesse cambiare nei confronti del corpo di mia moglie. Ecco. Questa è una cosa che alcuni amici mi hanno raccontato, non è accaduta però. No, assolutamente, anzi è stato proprio un momento di condivisione non solo con la mia compagna ma anche con i figli, che ha rafforzato un rapporto che io chiamo quasi fisiologico, umano, e è veramente un legame che diversamente forse sarebbe meno stretto, diciamo così. Quindi Gustavo, come dire, per tornare a noi, in sostanza le 3-4 volte a settimana si timbra sempre il cartellino? Sì, con i figli forse un po' meno, però insomma si prova a tenere un ritmo onesto. Senti, invece c'è un pezzo in cui tu parli di un momento delicato, che è quando tagli il cordone ombelicale. Sì. E lo fai tu perché, lo spieghi anche, però c'è una teoria dietro, giusto? Allora, è una teoria che non mi appartiene fino in fondo, nel senso che mi è stata un po' tramandata. Il discorso è questo: il cordone ombelicale è un qualcosa che durante tutto il parto è il mezzo con cui la madre trasferisce la il nutrimento al figlio. Sì. E ovviamente più tardi lo recidi e minor trauma crei al figlio, al bambino. Questa è un po' la teoria detta da un ignorante perfetto. E la teoria mi è stata tramandata, come ho raccontato nel racconto, da mia cognata, che fa l'osteopata e lavora molto con i bambini, con le donne in gravidanza, eccetera. E io da buon ingegnere nasco scettico, però alcune cose di queste teorie sinceramente le sento abbastanza mie. Gustavo, ti ringrazio moltissimo per il racconto, per la storia e per la telefonata, e ti auguro un sacco di in bocca al lupo. Crepino tutti. Ciao Gustavo, grazie. Ciao ciao. Ciao ciao. 349-238-6666. Mancano 6 giorni. Roberto da Modena, la mia compagna Federica. Tra poco arriva Emma. Mercoledì mia moglie al cesareo programmato, Luca. E poi Angela che scrive: io e mio marito non ce l'ho voluto. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Nella foto che mi ha mandato Gustavo è a prua di una barca a vela e tiene in braccio un bambino. Ho una bambina, però considerato il racconto credo proprio un bambino. Ha su una t-shirt blu e dei bermuda a scacchi. C'è un po' di vento, ma poco, perché sembra tutto tranquillo. La barca a vela non è particolarmente grande e ha le retine laterali in modo che appunto i bambini non cadono in acqua, sono fatte apposta per quello. Lo tiene su una gamba sinistra il bambino, lo tiene stretto con un braccio, ha su degli occhiali da sole quindi non si vedono gli occhi. Però sta sorridendo e il bambino non è altro che Filippo. C'è stato un periodo in cui mi ero fissato col pensare al giorno della mia nascita. Avete mai pensato a qual è il primo ricordo della vostra vita? Cioè, qual è la prima cosa che vi ricordate? Di solito qualcosa che risale all'asilo, più o meno. Oppure no, c'è qualcuno che si ricorda frammenti di momenti ancora più lontani, però non si capisce mai se sono dei ricordi che ti hanno riportato, se sono delle immagini, se magari è una cosa che hai visto in una foto, allora ti sembra di ricordarti di quando a 2 anni spegnevi una candelina. Però si dice che i primi ricordi risalgono attorno ai 3 o 4 anni. Vabbè, c'è stato un periodo in cui ero partito con questo viaggio, e cioè cercare di ricordarmi il momento della mia nascita. È una roba chiaramente impossibile da fare. Si può chiedere alla propria madre o a quelli che erano presenti all'epoca, però non avendo il medico a disposizione di solito lo chiedevo a mia mamma, e i racconti chiaramente sono più o meno simili poi nel tempo, no? Era luglio, era estate, faceva caldo, c'è il racconto di mia nonna che mi dice, mi ricordo che quando ti ha portato l'infermiera disse tenetelo da conto che questo qui è un tesoro, poi non credo che l'abbia detto l'infermiera, però nella testa di mia nonna gira sempre questa frase, me la ripete sempre. Ma quel momento lì, il momento della nascita, si... provate a fermarvi a pensarci. Vai dopo un po' vai via di testa, perché è una cosa che non puoi ricordarti, però a un certo punto diventa l'unica cosa che vorresti ricordare nella tua vita. E io, siccome ci pensavo in continuazione, a un certo punto ho cominciato a sognarla questa cosa, ed era sempre la stessa. Io credo di averne già parlato di questa cosa, però è una cosa che mi si ripresenta talmente tanto di frequente che quando ho letto il racconto di Gustavo non sono riuscito a trattenermi, e quindi, nonostante io non sia nato su un tram, l'incubo o il sogno ricorrente che faccio riguardo alla mia nascita fa così. Sono su un tram fermo nel centro di Milano. Di fronte a me una donna sta urlando, ma io non la sento. Ho la musica nelle orecchie e vedo solo la sua bocca. È aperta in un grido che deve essere fortissimo. Mi sfilo le cuffie, ora sì, ora la sento bene. Avrà 30 anni. È minuta. Ha i capelli corti neri e una pancia enorme. Tiene le gambe larghe e ci sono un paio di persone accanto a lei. Le stringono le mani, ma lei se ne frega. E urla. Urla come non ho mai sentito urlare nessuno. Io sono paralizzato, la guardo. Guardo i suoi occhi chiari, arrossati. Lei piange, stringe e urla. Il signore di fianco a me chiama l'ambulanza, poi mi dice di spostarmi, di non stare lì. Ma io sono come ipnotizzato da questa donna che urla tutta la sua vita, tutto il suo dolore. Arriva l'ambulanza e le persone scendono. Io rimango in un angolo del tram. Rimango a guardarla. Il medico dell'ambulanza si inginocchia davanti a lei e le grida qualcosa che non capisco, e nemmeno lei, secondo me. Continua a piangere e mentre lo fa, improvvisamente la sua faccia diventa familiare. Sì, è vero, ha 30 anni di meno. Sì, è un po' più magra, ma è mia madre. E mentre il medico fa dondolare il bambino per i piedi, capisco che quel bambino sono io. E sono bagnato, è un gran freddo, e c'è luce, rumore. Sono solo. Sono appena nato. E ho paura. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. L'esame di semiotica all'università è stato il mio parto più lungo, scrive Ale. Superato quello scoglio ho capito che la laurea non è più un miraggio. L'esame di semiotica, anche io ho fatto l'esame di semiotica, avevo, come si chiama il... Volli, Ugo Volli, è ancora vivo? È ancora vivo Ugo Volli? Sì, era abbastanza giovane, no? Mi ricordo niente di quell'esame. No, mi ricordo una... Gray Mas, possibile ci sia un semiologo Gray Mas? Beh, eh? Gray Mas o Gray Ma? Chi se ne frega? L'altra, Gray Mas, è francese. Veniva da Gray Mas? Vabbè, ma chi se ne frega? Carlo, la nascita della figlia dalle 8 alle 14:26 del pomeriggio, interminabile. E poi è arrivato un messaggio che non ho capito se è di adesso. Cioè, sta accadendo in questo momento. Marco, di corsa verso l'ospedale di Biella, con l'ostetrica sull'auto, dietro di noi, che è un taxi, l'avete caricata per strada, agita i guanti di latti, cioè i semafori, urlando, se rompe le membrane ci fermiamo. Ma a chi lo urla? A voi o a quelli per strada? Stamane, ore 8:30, Dove l'ho perso? Ecco qua. Ore 8.30, visita del termine per la nostra Alice. Termine scaduto ieri, ma niente da fare. Il ginecologo ha detto di avere pazienza. E allora restiamo in attesa della nostra prima figlia. Marco da Monte Marenzo. Dov'è Monte Marenzo? Toscana, credo. Ma però non lo sappiamo. Anche questo non è male. Mio figlio di 4 mesi doveva nascere pretermine e invece è nato a 42 settimane dopo un lungo travaglio. Pesava 4,6 kg. Sono tanti 4,6 kg. Di solito quant'è un bambino? 3,5. Bonini 3,8. Quindi sono tanti 4,6. Ora nella vita non mi spaventa più niente. Pensa a tua moglie. E poi c'è il messaggio di Diego che diceva che Milano fa schifo. Dice che abita a Verona in realtà, però il suo migliore amico, che spesso va a trovare, dice vive e sopravvive a Milano. Diego, vieni a trovare più spesso il tuo migliore amico, così impari a conoscerla un po' di più. Voi siete qui... scusa, ha telefonato qualcuno... Greima, benissimo, grazie mille. Beh, abbiamo scoperto che... scusa? La centralinista di Radio 24 è laureata in semiotica. E suggerisce Nicole che si dice Greima. Grazie, mi ricordo solo una roba, poi chiudo con questa storia. Un racconto di Greima in cui c'era questo vecchio che leggeva un libro su una poltrona in velluto verde e entrava e usciva in continuazione dalla storia e si teneva il contatto con la realtà grattando l'unghia sul velluto verde della poltrona. Non mi ricordo nient'altro, però quella era una bella storia. E ringrazio Ugo Volli per questo. Ugo Volli fa ancora quelle robe che scrive su Repubblica, sul Corriere, no? Fa anche il giornalista Ugo Volli. Anche di teatro, sì. Beh, ma chi non scrive di teatro? A proposito di teatro, Caterina scrive: il mio vero parto è lo spettacolo che sto scrivendo. Dall'altra parte, chi di noi non sta scrivendo uno spettacolo? Anche di là dal vetro. Grazie a tutti, grazie a Viola Bottoni, grazie a Margherita Aina, grazie a Tiziano Bonini, a Paolino Corleone e a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era quella di Gustavo e parlava di un parto. Quella di lunedì, invece, è la storia di Silvia e racconta di quando finiscono le cose. E penso che sarà un periodo che ricorderò, e lo ricorderò come un bel periodo. La mattina mi sveglio presto, vado in biblioteca passando dal ponte sull'Adige. Verona è bella a fine maggio, alle 8 del mattino. Ti viene voglia di vivere. Si respira quella sensazione che solo la mattina presto, nelle giornate estive, puoi assaporare fino in fondo. Quella sensazione speciale, quando le strade non sono né piene né vuote. Vedi gente affaccendata ma non troppo stressata. E ti viene da sorridere a tutti. E così faccio. Sorrido. Anche se qualcuno ricambia con uno sguardo sospettoso. No, non sono pazza. È che in questo periodo un po' continuerei a sorridere. E un po' piangerei, senza smettere più.